pesante. Schiacciano sti muri, mami. Caldo alle guance. Ho ancora il segno delle mani. L'amore insegue l'odio, quindi non posso separarli. Ti ho tirato il mio telefono addosso. E chiedo mi ama o non mi ama. No, mi grida figlio di puttana. La stessa bocca che mi baciava. Quando cadono lacrime, negano i conflitti. E resuscitano se tiro sedie sui soffitti. E credi che sia la strada che mi fotte? Sì. Quando mi vedi segni delle botte. Dormi sola la notte. E senti che in giro parlano di me. Lingue di ragazzine che si vantano di me. Questo è il prezzo che pago. Sì. È per questo che mi concedo di rado. Vogliono me o la voce alla radio. Cambia vita l'occhio del ciclone. Sì. Per questo non mi fido dell'amore. Il mondo mi dà ragione. Ehi. Ora che ci penso. Fai come stai se ci stai dentro con il tipo che ora a fianco a te. Per me finto come la tua borsa di Chanel. E in un mondo di ciechi il guercio è il solo re. Siamo passati dal letto dei tuoi al 5 stelle. Gente vuole essere noi, mente non fai cazzi suoi. Amori sdolcinati in radio quanto lui ama lei. È tutto finto ed è evidente che il cantante è gay. Coi pugni rotti ed occhi rossi all'alba delle 6. Tu invece con chi sei? Alla tua amica spegnerei una siga in faccia quando sputa quel veleno infetta. Ti chiamo tocco l'odio, cola dalla mia cornetta. Ricordo il consultorio, il medico osservante. Le tue mani sul mio collo, unghie nella carne. E mi vuole morto anche tua mamma. Cattivo karma, lo psicodrama. Non denunciarmi, allarma. Ora che ci penso.